prezzo è irrisorio, 2 euro una, questo microfonino col cavo 2 metri, l'altro era con 1,5 metri di cavo, mi pare. Il jack è già pronto da 2,5, tipo uno 2 euro, l'altro 3,50 euro dalla Cina. Spedizione gratuita, poi spedizione gratuita, invece questo di coso se lo fanno pagare a peso d'oro, questo di marca Presidente, è in più improbabile in tutta Europa, credo. Cioè tutti quelli che ce l'avevano esaurito nelle varie lingue, no, non conviene col prezzo. Peraltro il box funziona anche col mic da palmo, lo sai. Prova ad attivarlo, senza premere PTT, l'ho avvicinato alla bocca, parli e trasmette. Anche lì c'hai i parametri da regolare, tipo sensibilità e cos'altro. Forse la durata dello stacco, tipo se devi staccare dopo mezzo secondo, un secondo, devo vedere. Sì, il tempo di stacco è quello, perché quei passaggi non li stiamo facendo noi, poi ci sono delle pause lunghe, magari si sganciano, ma invece almeno mezzo secondo io lo devo dare, in modo da avere la modulazione più costante, capito? Poi vabbè, quando finisce c'è un po' di coda, ma non c'è niente. Vabbè, tutte fesserie che voglio ordinare, perché sono al costo di un caffè, di due caffè, da. Ma poi quanto ne userò? Non so col Vox, no, perché tanto per attaccare gli devi dare un impulso, tipo, poi una sillaba e attacca, no? Se no rischia che si mangi mezza parola, se la parola è breve, capito? Sì, quello che mi scoccia di più è queste guaine schifose che stanno facendo in tutti i baracchini, tutte uguali, tutte a frattura prestabilita. Perché se tu prendi un microfono sostitutivo identico, no, Presidente, che ha i tastini up down che sono di una comodità estrema, prima io dicevo, tanto c'è il selettore, no, la monopola dei canali, invece è utile. Ti costa già un microfono normale, non amplificato, proprio di serie, sostitutivo, 30-40 euro, se ti va bene pure, e se lo trovi pure. Beh, quello se lo fanno pagare. Ma io li ho visti, perché se no sto cercando per altri motivi, quei microfoni che dici tu, da mettere all'orecchio, e c'è manco il box. Ho visto che costicchiano un po', c'hanno il box incorporato e poi, come al solito, fanno le prese dedicate, no? Quindi non sai mai se può andare bene o andare male. Poi c'era anche su Amazon, ho visto, però i prezzi, insomma, sono così, ce ne sono di tanti modelli, un po' per tutti i gusti, però gli attacchi sono il vero problema. Sì, proprio su Amazon, dando un'occhiata, ho visto questo microfonino, e non so se avesse anche la cuffietta o l'auricolare, microfonino con box incorporato, però poi aveva un attacco stranissimo, una cosa che non avevo mai visto, non so che per quali apparati sia o se per altri usi, e comunque il prezzo sale. Invece questo qua dalla Cina, peraltro come quello Presidente, è una capsula a condensatore, con un cavo e il jack 2.5. Poi vabbè, ti danno la pincettina per il colletto e anche la spugnetta antisoffio. Quelle te le danno un po' tutti, però devi stare sempre attento agli attacchi, capito? Perché se no macello tutto lì. Mentre sto parlando sto anche lavorando. Non c'è, trappano avvitatore o trappano il No, è un avvitatore fare la trappa, no? L'ho usato per fare nella radio il 200 millesimo buco, oramai tutta bucata questa stazione, per metterci con l'attrezzino microscopico del PMI, dato che la macchina non serve a niente, perché non lo devo piazzare fisso. L'ho piazzato, l'ho piazzato il suo coso in stazione quando lo voglio usare, così che ho, perché c'è veramente una slitta formidabile, quella è veramente una cosa, questo apparecchio c'ha molti dubbi, di una comodità, guarda, sugli altri apparati veicolari ci sono quelle viti che ti fanno dannare, questo a slitta lo metti, boh, chiuso, tutto fatto, 2 secondi, tutto di 2 secondi lo riattacchi. Eia. Ma per via della sua staffa a scorrimento, con la farina allarghi le due alette e sfili? Sì, è eccezionale, è una bellissima idea. È vero, molto pratico. Io mi ricordo tanti anni fa, può darsi che sia tuttora così, la staffa dell'Alan 48 aveva un binario, anzi aveva tutta anche il l'Intec 548, che poi era un 48, era la stessa roba, avevo lo stesso un binarietto ai lati, tu allargavi appena i pomelli e lo sfilavi, però non dovevi togliere tutti i pomelli per sfilarlo, capito? I pomelli restavano attaccati alla staffa, e questo ancora più pratico, è un'idea intelligente, è stata quella. Fai molto in fretta, ma è così, dai. Ah, piuttosto, io sono sempre alla ricerca disperata di questi gommini tondi, forati, che si interpongono tra staffa e apparato, ma nemmeno in Cina l'ho trovato, ho messo tutti i termini possibili, gommino, staffa, apparato, l'ho messo in inglese, l'ho messo in italiano, ho messo ring, ho messo guarnizioni, ma non ci sono così, cioè che abbiano il foro giusto per la vite, no? I gommini in dotazione alle staffe degli apparati, io da soli non li trovo, stavo cercando anche se c'erano addirittura quelli adesivi, no? Dentro lì l'adesivo fissi alla, in corrispondenza al foro della staffa, e così non ti cadono quando cambi la posizione della staffa, no? Tipo in basso per metterlo sul tavolo, oppure con la staffa in alto per attaccarlo alla macchina sotto. Basta autocostruirli, quindi no, proprio un po' come, infatti sto andando a prendermi uguale. Un attimino che devo andare nel mio deposito a prendere proprio due di quei feltrini per mettere una vita ciò alla torre giro. E poi devo sparare anche a due gatti che stanno affarando. Faccio una cosa velocissima. Spara, spara. Ok, fai pure. Hola, test, test. Hola la cipolla, vediamo un po'. Tepido il giusto, ma ok. È entrato qualcuno? No, ero io che stavo guardando lo smitter qua, l'SVR cal inutile, però ogni tanto un apparecchio tiepidino il giusto, ma questi almeno non scaldano, porca miseria. E ascolta, a livello di calore questo PNI, cioè usandolo, modulando un po' una serata, scalda in effetti? Sì, sembrerebbe un fornetto di quello per le pizze, però tutto sommato personalmente non mi dà fastidio, sai, il fatto che il prezzo sia così basso, se c'è questi piccoli inconvenienti non se ne può fregare meno, tanto guarda, stamattina ho fatto il piano ad esempio alla macchina, mi è costato più del PMI, quindi è una frontata praticamente quello del calore, se dovesse bruciare poi c'è un solo finale, credo che è anche abbastanza grandicello da sostituirlo. Piuttosto c'era una cosa che ti volevo dire, per esempio la pezza, che adesso non mi ricordo più, vabbè tu. Comunque, funzionando il pezzo, funzionando tutto, in macchina. E infatti ho già, tutto, c'è anche l'antenna, che ce l'avevo già da tanti anni, quella polizia, no, che non seguono anche gli telefoni, che è abbastanza corta, e infatti risuona anche, mi sa, in banda VHF, mi è sembrato di vedere dall'analizzatore. Però ogni tanto mi tocca smettare, io ho un'antenna col PL, no? Con quel tipo d'attacco, però è una rottura perché ogni tanto ti tocca accettare questo PL che per forza deve essere preso bene. Mentre togliere l'antenna UHF e VHF, la B-banda, metterci quella, e quindi l'unica cosa di scomodo che c'ha è proprio evitare anche il connettore di tele radio. L'unica cosa comoda sarebbe quella, però il gusto di ritrovare la 27 mobile è, devo dire, è interessante, solo che quando io faccio le prove sono a chiappo mai nessuno, e quindi devo essere fortunato a trovare la giornata in cui c'è gente. Eia, è vero. E infatti io sabato e domenica, le poche volte che me lo sono portato, il baracco, non entrava nessuno, né sul 10 né sul 23, proprio serate morte. E ho detto, magari me lo faccio qua. Ogni volta mezz'ora a montare, vabbè, montare, perché io poi non lo lascio qui su in macchina. Insomma, qua ci portano via tutto. Non ne valeva la pena. Dipende. Alti e bassi alla 27 come tutti i periodi. Non lo so se era fatto là. Guarda se sta chiamando qualcuno. Chi è che vuole entrare? Boh. Sento solo il QRM. Ah, che strano. Mi è sembrato, come diceva Silvestro, di sentire qualcuno. Però era molto molto molto basso. Stare attenti quando si fanno le prove che ci sia sempre qualcuno, ma guarda, ti posso assicurare che è più facile farle 27 che farle dalle altre parti, capisci il mio lavoro, perché se le fai ad esempio in HF devi aspettare mezz'ora prima che ti diano udienza, perché sono dei passaggi tipo Falcone, no? Ma dunque, se tocca a te, te ne sei sul fatto e stai chiedendo tutto. Ehi. Quando pure trovi quello che ti dice che sei basso perché non sei 9 più 30, mi ho sentito anche di roba del genere, sei basso, questa era 9, ah. Sì, ci sono radiomotori in HF che gradiscono segnali 9 più possibilmente, al di sotto di un certo livello non si abbassano a tendere l'orecchio nemmeno. Anche quando succede, come succede di tutto, però cosa ci vuoi fare? Purtroppo a pensare che c'era un detto dei radiomastori di un'altra epoca che dicevano che i segnali bassi sono sempre più interessanti. Evidentemente questi non sono proprio. Prima stavamo parlando di gommini, tu stai dicendo di costruirseli. Vabbè, sì, volendo, purché venga bello tondo, e sono pasticcione, se tento di farlo tondo mi viene quadrato minimo. Ah, guarda, io l'ho preso, e fortunatamente ci sono, dai cinesi, ci sono tante cose utili, ad esempio ho preso un... vogliamo chiamare un feltrone, perché non è un feltrino, è grande quanto 3-4 cellulari ed è tutto in gomma, diciamo secondo le loro intenzioni si dovrebbe usare sui ripiani delle automobili, sui cassettini per non far scivolare niente perché è in gomma, e in effetti andrebbe bene per quello scopo, però si può usare anche come feltrino, adesivi e sono ottimi. Il tutto per un euro, per un euro, ma ce ne sono, saranno, quanto sono, una ventina. Gomma liscia, tipo gomma liscia, non sono di quelli antiscivolo, quelli forati e in rilievo, no. No, sono, ce ne hanno quadrati, rotondi, questi in gomma sono degrinati, quindi non è gomma liscia, è proprio fatta in modo da frenare. Ma anche gli altri che però a me non interessano perché sono in quell'altro materiale, quello che si usa sotto le sedie, se ne intendeci. E se metti questi qua sotto le sedie penso non lo vedono bene perché essendo gomma dopo un po' si disintegrano. Sì, quelli sotto le sedie veri e propri feltrini, dai, che sia feltro vero oppure tessuto sintetico. Quelle lamette sintetiche pressate. Vabbè. Bene, bene. Sì, perché poi se te ne perdi uno di quei gomini trovi sempre roba più rigida, col foro enorme, no? Beh, che praticamente poi si sposta, eccetera. Ok. Ho messo quel gomino, ho avvitato e adesso non riesco a girare la tasca, mi tocca risultarlo per metterla a dritta, ma te lo immagini, se funziona, ecco qua, lo mettiamo dritto, lo riavvitiamo, e anche questa diceva il lupo alla pecora è fatta. Il coso alla pecora? Al lavoro finito, ho detto come diceva il lupo la pecora, diceva anche questa è fatta perché sono mangiata. Ah, ok. Ho alzato appena il volume. Gianni è disperso. Mi pare di averlo sentito sul 23 per un attimo. Credo che gli sia arrivata l'antenna. La turbo, però non gli avevano telefonato, lui aspettava la telefonata. E poi la piacerà, in quanto prima la piacerà e poi si faranno le prove diritto. Ma ci vuole poco a provarla, sto già gli attacchi. Adesso mi sa che mi tocca sacrificare l'accio di sigari, però. Ma non che non utilizzi? No, forse è meglio non toccarlo l'accio di sigari, è un peccato perché tutto sta romanzo, perché c'ha in dotazione anche la presa che di sigari, che è comoda. Tu una volta ti stavi adocchiando il Midland, qual è, l'M10 o l'M-Mini, che è una cosa simile, ma la presa USB mi pare, no? So che la Midland già a parità di coso copiato da PNI, da CRT, che poi credo sia tutta roba Nittone, presumo, in origine. Si rifà pagare a peso d'oro, vabbè. Sì, io volevo prendere in effetti quello che ha detto tu, poi ho visto questo, ho detto cavolo, ma è identico, è identico a questa la metà, anche internamente, perché se tu guardi c'è un super fanatico che fa le modifiche, non so se sia svizzero o cosa sia, praticamente c'ha tutte le modifiche di tutti gli apparati, anche questi nuovi. Sta persa, ho detto ma non ha la stessa cosa e quindi ho detto perché devo regalare soldi per un prodotto assolutamente identico che loro cambiano solo la marca, quindi preferisco, ho preso questo e ho visto che comunque è ottimo, la recensione anche una volta tanto erano serie e quindi insomma sono andato sul sicuro e non posso far altro che consigliarlo, ripeto, perché il prezzo è concorrenziale, oppure posso tagliarlo così gli faccio una cosa a costo. lui, vabbè, non ho mai capito che quale sia l'apparecchio di origine cinese da cui hanno avuto origine poi, no, marchiato CRT eccetera. Però di solito sono sempre Anitone, dintorni, no, anche quelli con l'SSB, no, questi CRT 6009, 7009, 9009, 5555, quell'Inter, vabbè, sempre Anitone in origine. Poi magari Anitone mette il nome sempre per il mercato orientale, per rimetterlo sul mercato la fabbrica avrà un nome particolare comunque. Per quegli apparecchi hanno origine un saccaccio di roba. E non solo CB, anche questi veicolarini V1, più o meno passabili, sempre da lì arrivano. Beh, dunque, guarda, in Cina c'è una città, molte di città sono enormi, 3 milioni, 5 milioni, 6 milioni di abitanti. E questi apparati di norma sono stati a Shenzhen, che è una città industriale dell'elettronica, e di lì ci sono tantissime aziende che fanno elettronica proprio, da quella, diciamo, di consumo economica a quella, diciamo, più professionale. E di lì praticamente, se tu lo vuoi, ci vai come produttore, dici guarda, costruisci un rotolario, fatta così così, su quel modello, e loro te la fanno, decidi tu se la vuoi fatta con componenti eccellenti oppure con roba, non dico scadente perché non lo è, ma con roba diciamo economica, in modo da fermarsi su delle fasce di prezzo ragionevoli. E loro te lo fanno, quindi moltissima roba arriva proprio da, se tu guardi, c'è spesso Shenzhen Electronics Corporation, che è una delle tante che fa queste cose, ed è proprio il punto in cui nascono tutti, cioè la maggior parte degli apparecchi, dei loro registratori, televisori, e chi più ne ha metto. Mega fabbriche, mi ricordo che se volevi, per esempio, il famoso Anitone, l'Intec 5005, no, alias CRT 6009, se tu ordinavi dalla fabbrica un minimo di 100 pezzi, loro ti personalizzavano il nome. Se avevi un gruppo di persone, un gruppo d'acquisto, ti facevi mettere, un gruppo Alfa Tango poteva farci mettere il modello della radio Alfa Tango, capito? Quello che volevi, ti facevi serigraffare sopra o come stampare, quello che è, insomma. Anche l'Avanti l'ha fatto quell'apparecchio lì, lo sai, marcato Avanti. Anche il prezzo era Avanti, però mi pare molto più avanti del normale 5050. Beh sì, come al solito. C'è sempre lo stesso apparecchio, anche perché loro hanno i loro modelli, loro dicono guarda, c'è questo modello senza marca, quindi ne prendi, ne so, 2000, ci metti la tua marca e te lo vendi poi per fare un po' di soldini, capito? Si lavora anche così. Pensa, anche a Kenwood l'avevano marcato quello lì, quel modello strepitoso che hanno copiato in 12, ma 12 più marche mi pare in tutto il mondo. Kenwood per il mercato russo, e la Kenwood peraltro aveva rimarcato anche l'UV5R, vedendo che vendeva un bene, sempre per il mercato russo, si è comprati dalla fabbrica, ci ha potuto mettere Kenwood modello XY. Ma però, vabbè che la Kenwood era al tramonto, credo, era già al tramonto. Diciamo che fabbrica sempre, però è finita l'epoca dei grandi prodotti, ecco, delle grandi, di suonare tanti apparati. cambiano, e quindi c'è stata questa specie di rivoluzione, tutti verso i cellulari, anche radioamatori, verso i computer, e quindi è chiaro che la crisi si è fatta sentire anche per loro. Comunque produce, tuttora produce, ma sempre un po', vabbè. Ma era come la Garelli. La Garelli prima di chiudere, poi non so se abbia riaperto, però non è più Garelli, cioè non produce in Italia. La Garelli prima di chiudere aveva importato questi scooter dalla Cina, c'era solo il nome Garelli, per il resto si vedeva anche... Mamma mia, lasciamo perdere. Forse li avevo acquistati da Auchan in vendita. A prezzi ridicoli, ma poi l'assistenza, come quelle mini moto cinesi. Cioè, compri, usa, getta, poi ricambio, voglio vedere che dove li trovi. Poi credo che abbiano rilevato il marchio, ma non è più la Garelli di una volta. Sempre che esiste ancora, mi pare l'avessero rimesso sul mercato, però credo che sia cineseria o quantomeno roba rimarchiata, non so di che origine. Sì, anche se c'è da dire che comunque quella parola lì è detto, andava bene 10 anni fa, cineseria è la parola lì, ora come ora la Cina fa sia le cineserie, quelle che trovi qua dai cinesi, ma fa anche apparati di altissimo pregio, quelli professionali. Tu guarda, un esempio per tutti è l'Istera. Tu pensa che l'Istera, se continua così, cavalca anche la Motorola come produzioni, perché c'ha tutti i paesi dell'est, così ci sono altre case, la Thais, perché noi guardiamo sempre l'Europa, poi bisogna vedere cosa circola in tutta l'Asia, che ha anche ben altri volumi di mercato. Quindi cineserie fino a un certo punto, perché poi questi si sono fatti grandi, capito? Anche andando all'avanguardia, con il 5G sono all'avanguardia, ad esempio, e per quello che Trump non è sulla vita. Poi hai accennato l'altro giorno che alcune banche o molte banche, adesso non so la situazione, sono in mano ai cinesi, quindi Trump potrebbe abbassare le penne un po', le penne rosse che ha. Ma speriamo che lo facciano fuori, perché è proprio un asino, tra lui e quell'altro brasiliano, se continuiamo di questo passo finiamo tutti male veramente. Perché stanno distruggendo il pianeta qui, e questo non è vero, e quello mette un piromane nato, quello brasiliano, e quindi insomma saranno anni difficili quelli che verranno, anche per colpa di questi personaggi. Non prendo quello a fare, ho guardato, ma lo sai che sono dei maniaci, lo sai quanti finali, quanti possibili c'ha questo apparecchio, così com'è? Ne ha la bellezza di 3, c'ha 3 finali, va 3 fusibili, uno dentro l'accendisigari e 2 lungo il filo d'alimentazione. Cioè uno al positivo e uno al negativo lungo il filo. Una volta lo mettevano solo al positivo il fusibile, come mai? Sì, l'ho visto comparire su molti apparecchi il fusibile doppio, uno sul nero, uno sul rosso. Sì, aspetta che lo sto aprendo il fusibile, perché di quelli, guarda che studi che sono, cioè l'apparecchio effettivamente è un apparecchio un po' al di fuori degli schemi, non è collegato, uno è nel contenitore fusibile che è doppio, sembrava infatti due fusibili collegati, invece uno è praticamente il ricambio, così non vai a cercarlo, capito? Quindi tutto ne ha 2 collegati più uno di riserva nel suo contenitore. Geniale, come quindi non rimani mai a secco, capito? quello sarà da 2 ampere fuggibile o da 3, contando che si può fare 8 watt, magari 3. Sì, io ho visto una modifica di questo apparecchio, secondo me da dementi, però infatti anche quello di Svizzero che ha fatto la recensione, che fa le modifiche, dice ha avuto rischio e pericolo. Ho visto che raggiunge i 20 e passa a watt, poi bisogna vedere come c'è di radio, e fornisce, e bisogna praticamente cortocircuitare una parte del finale. Secondo me è un'idiozia. Ah, l'hai vista anche tu? Sì, ho visto una foto dove inquadra il finale, un finale ho visto, un po' grossetto, e ho visto una saldatura tra due piedini, tra due dei tre piedini, ma non so come funzioni, che roba butti fuori, su che frequenza esca. Infatti, ripeto, ho più di un dubbio, ma veramente un dubbio, perché una cosa del genere non credo che sia consigliabile, quindi bisogna vedere come va poi, ecco. No, ma poi se, cioè, già scalda con 4 watt, molti hanno detto anche che con 4 watt quando fai botta risposta, tra la sera scalda e come? Se lo fai 8 watt con i due jumper da spostare, non ne parliamo, 20 watt al calor bianco, si scioglieranno le saldature interne pure. È probabile, a quei livelli penso proprio di sì, ma poi cioè a quel punto che senso ha veramente? Uno dice ma chi te lo fa fare? Ti brucia l'apparecchio, per quanto economico sia, vabbè, però è una fesseria, anche perché poi non considerano la parte principale, che è il modulatore, questi 20-20, 25 watt che tira, come li usa, se quello è stato progettato per i 2, 3, 5 watt, quello che è, capito? Perché non è solo a dare potenza, è anche a gestirla la potenza. E poi carino, c'è anche quel non ricordo male, c'è un dissipatorino dietro, pure no? E vedrai che poi come gli squali ci giro attorno poi. Comunque glielo segnalato a questo amico, conoscente di quell'apparecchietto, che è valido per il camper. E poi vedrà lui, gli ho detto dove comprarlo, se lo vuoi, qual è il prezzo, eccetera. Sì, ripeto, per quell'uso, se non c'hai spazio soprattutto, io ne sto cercando uno che adesso è una potenza accettabile, una potenza veicolare, che non fosse sotto il ricatto delle batterie che quello che si scarica, non perché si è dimenticato o perché con la possibilità di avere il meno fili possibili, e questo rispondeva a tutte le caratteristiche, quindi ben venga. Quindi ho detto, con questa cifra si può anche rischiare di prendere anche la fregatura, mentre invece vedi, a pensar male poi invece hai fatto una scelta buona, quindi è da tenere sicuramente in piena considerazione. Allora viene venduto anche il sottonome di Canva, marca Canva, forse per il mercato polacco, una cosa del genere, comunque vari croni, poi ci sono le piccole varianti, piccole varianti, c'è il modello superiore che ha i tastini frontali semitrasparenti, quindi illuminati, e ha in più sul microfonino il tasto al centro auto squelch, canali e al centro auto squelch, che è richiamabile da mic, che può essere comodo soprattutto se sei in macchina, se ti si alza il QRM improvvisamente, no, per disturbi elettrici. Però petroli sale il prezzo alla fine. Ok. No, stasera proprio mortorio, va bene. Beh sì, infatti la soluzione è sempre quello che faccio io, no? Scritto mi vario, però nel frattempo mi faccio alcuni lavori e così unisco l'utile al dilettevole, capisci? Infatti volevo dire. Però questo apparecchio, adesso non ricordo male, sono io che lo scrivo. Ma è fatto in Europa, credo, in Polonia, possibile? No, vabbè, oddio. Vabbè, fatto sarà fatto in Cina. Però PNI è un'azienda romena. PNI.ro mi pare il sito. Come la Intec, come la Proxel, come la Polmar, tante altre. Così dai. E ho visto che molte antenne veicolari, altro non sono che antenne Midland, è come la mia, no? Quella da 1,5 metri da macchina, sempre fatta in Cina, identica, estremamente identica. Internamente presumo lo stesso, è marcata PNI, sta rimarcando una marea di roba Midland, che poi la Midland te l'ho detto, tutta roba sempre cinese, non cinesata, è roba cinese e ci metto nel bollino Midland, è tutto lì. Ok. Gianfra, io devo scappare in bagno a causa zampogna vescicale, dai. Sì, tanto io rimango qua che faccio due salvatuine.